signori, Radio Golde è orgogliosa di presentare un programma di musica eccezionale selezionata per voi per la Silenzio. Sempre musica particolare su Radio Gold, il Mosquito Night. Noi siamo Club Silenzio, io sono Gas, Iatu in regia, ai comandi della regia audio. E però altri Mosquitos vi aspettano sempre qui su Radio Gold all'interno di Mosquito Night, per esempio i figli di Giles, Seltz & Gold, Svisa, Evandro o Memo. Questa sera partiamo con Celentano Sbossa di The Captain. Club Silenzio. Silenzio. Silenzio. Freezing cold in 89 years old. You're the cold mate, say one. Freezing cold in 89 years old. All right. Bob Samperi, a.k.a. The Captain, un simpatico ragazzo del sud, un DJ che abbiamo conosciuto a Milano alla serata Melting Pot organizzata da Radio Zero Gravity, dove potete sentire anche le vecchie nostre trasmissioni. E ballando abbiamo sentito questo pezzo, ce lo siamo fatti mandare immediatamente. Altra novità su Jazz & Milk, come state sentendo questa sera partiamo già carichi di ritmi, poi avremo modo di riprendere il respiro con un'intervista a Gigi Di Gregorio per l'uscita di un suo nuovo disco in quartetto. Si tratta chiaramente di jazz. Allora, questa è la novità da Jazz & Milk che vi dicevo, un remix di Watch TV, lui si chiama Dusty. Mosquito Night, ritmi, suoni, emozioni. Thank you. televisione è un medium di massa. Il medium di massa non può che mercificarci e alienarci. È proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno ti ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico. Club silenzio. Chiudere gli occhi, aprire le orecchie. E Club Silenzio sempre in multipiattaforma, sia l'FM di Radio Gold oppure lato web su Zero Gravity, Radio Pazza di Roma, soundcloud.com/clubsilenzio, dove potete sempre sentire su internet quando volete le nostre vecchie puntate. Ricca di novità questa puntata in particolare, questo era Dusty, un singolo uscito su Jazz and Milk, e stiamo per sentire un'altra novità di The Fats, che ha fatto uscire un disco sulla loro etichetta Fazzadelic. Si tratta di una reinterpretazione dei loro pezzi di vari dischi precedenti, suonata dalla Radio Big Band di Francoforte. Per voi il nuovo disco di The Fats. Auf dem Eis Platz der Kopf. Die Zeit will nicht vergehen. A Mosquito Night, Club Silenzio. La musica con gli occhi chiusi. Con gli occhi chiusi. Thank you. Grandi chitarre, grandi organi, ma grandi tutti questi musicisti su Verb, incredibile la presenza di questi grandi musicisti per un pezzone, Rod Song, Wes Montgomery e Jimmy Smith. Questo era tutto tranne che una novità, ma era sempre bellissimo. Su Jazz, scusate, su etichetta futuristica, questa è strana, una strana traccia che tende a costruire un ambiente a partire dal ritmo break un po' spezzato, come dire che il ritmo non è una cosa che deve per forza far ballare, una base hip hop con interventi un po' jazz, un po' funk, anche un po' di sonorità di musica classica con certi archi, ed il risultato è questa traccia dai diversi volti. Loro sono The Jazz Chronicles. Mosquito Night, 7 sere su 7, ritmi, suoni, emozioni. We'll be right back. con Steve White, batterista, già con Paul Weller e gli Style Council, un trio soul funk pieno di groove. Questo era il singolo che questi Trio Valore hanno fatto uscire su un'etichetta di Milano che si chiama Record Kicks. Altra novità da True Talks, il Brasile e il dance floor incontrano un po' di noise in questo pezzo che si chiama The Exotic Delight. Penso che uscirà tra una decina di giorni. L'autore si chiama Azax. Ciao a tutti, il vostro grande amico Paul T, che vi parla dei microfoni di Radio Gold International, la musica per voi giovani. Mi raccomando, non mancate di sintonizzarvi sulla frequenza dei 99.1 di Radio Gold International, la radio per voi giovani, perché la nostra radio è la vostra radio, la nostra musica è anche la vostra musica. Tutto per voi giovani. Silenzio, Radio Gold. A Mosquito Night, Club Silenzio, la musica con gli occhi chiusi. Thank you. Anche questa è una novità da etichetta Lunatic Works, questi personaggi che ci parlano di sinestesia, cioè la contaminazione tra i cinque sensi tra loro, sono un po' psichedelici, un po' ambientali, ci parlano di sinestesia proprio a partire dal titolo del pezzo che avete appena sentito, che si chiama Hearing Colors and Seeing Sounds, loro si chiamano The Fruit Bait. Passiamo a un tale che si chiama Romanowski, quello che vi facciamo sentire. È per aumentare ancora un po' il ritmo con dei beat dal sapore sudamericano flagranti su Club Silenzio. Questo premio sia per me non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per migliorarmi al servizio del cinema e al servizio anche della mia personale estetica sulla musica applicata. Stai ascoltando Club Silenzio su Radio Gold. Un uomo da rispettare, Ennio Morricone, incredibile il marchio del suono di Ennio Morricone che sembra cosmico, infinito ed immortale, da una doppia compilation consigliatissima per chi volesse esplorare le sue malattie musicali più dissonanti. Non a caso si chiama Crimes and Dissonance del 2005. Questo era Un uomo da rispettare, una colonna sonora di Morricone del 73, un remix di un torinese per un gruppo su etichetta Felmai. Loro si chiamano Tango Negro Trio. Lui è un torinese, si chiama Dr. Jazz Universal Remedy. E poi vi lasciamo all'intervista con un altro torinese, cioè Gigi Di Gregorio, per il suo nuovo disco in quartetto. Alla prossima puntata, e ascoltate anche la seconda parte di Club Silenzio, il solito DJ set. Mosquito Night, ritmi, suoni, emozioni. Thank you. se va, se va. Alba sa già. Amigos que se van, se van. Amigos que se van, se van. Club Silenzio ancora una volta ospita interviste con musicisti, personaggi che fanno parte un po' del mondo della nostra musica, e quest'oggi abbiamo al telefono un sax torinese di livello come Gigi Di Gregorio per parlare del suo nuovo disco registrato e scritto con altri musicisti, per esempio Corrado Abate al pianoforte, Piero Crestodina al contrabbasso e Marco Puxeddu alla batteria. Ci sei, Gigi, mi senti? Ciao, ciao a tutti. Ciao, benvenuto, tutti. Benvenuto a Club Silenzio. Grazie. Allora, questo Multiverse Jazz Quartet, per multiverso noi sappiamo che intendiamo una serie di universi alternativi al di fuori del nostro spazio-tempo. Cosa ci dici di questo vostro nuovo progetto, Gigi? Ma guarda, noi siamo amici soprattutto, che aveva suonato tanto tempo insieme, siamo tutti di Torino, per cui ci conosciamo da una vita, insomma. L'idea di questo disco nasce dal fatto che comunque il jazz in qualche modo vive anche di trasmissioni dirette, no? Dell'attenzione che poi i musicisti si rivolgono al lavoro degli altri, perché vivendo insieme questa musica poi alla fine, dopo tanti anni, prima o poi ci si incontra a fare le stesse cose insieme, no? Anche facendo strade diverse, poi dopo uno decide di fare anche di arrivare allo stesso punto, e noi siamo riusciti finalmente, dopo aver collaborato con altre persone, a farne uno tutti insieme, tutto lì. Capisco. Allora, io ho sentito questo nuovo CD che si chiama Un'ombra in cammino, e ho estratto due pezzi. Io ho scelto di far sentire al nostro pubblico This Is For Jerry. Ci dici qualcosa di questo pezzo, che mi sembra di aver capito l'hai scritto tu anche direttamente? Eh sì, noi in questo gruppo, vabbè, si esprimono anche i musicisti, si esprimono anche in qualità di autori, come hai potuto vedere. Sì, questo This Is For Jerry è una mia composizione dedicata a Jerry Bergonzi. Cosa potrei aggiungere? Che, beh, ho pensato a lui perché è stato, insomma, ho frequentato dei seminari e forse con lui è stato il più interessante, insomma, poi l'ho conosciuto bene e mi ha dato molto, ecco, quindi ho voluto la prima occasione dedicargli una composizione. Bene, allora annuncialo pure tu, Gigi. Non sono tanto capace, ci provo. Provaci. Allora, per gli amici di Club Silenzio, This Is For Jerry. Mm-hmm.

Ecco, questo era This is for Jerry di Gigi Di Gregorio. Abbiamo fatto sentire un estratto dall'ultimo disco, un'ora in cammino, del suo ultimo quartetto che si chiama Multiverse Jazz Quartet. Sei ancora al telefono, Gigi? Sì, sono ancora qui. Bene, mi sembra di intuire, sentendo questo disco, che ci sia una dimensione che vuole far emergere le personalità di ognuno di voi. Questo è stato programmato a tavolino o è il risultato di un caso, Gigi? Cosa ne pensi di questo? Ma dunque, quando poi si collocano i generi nei vari dischi, si fa anche un po' di confusione, perché poi si comincia a pensare di associare magari un pezzo a un certo periodo o ad un altro. Noi abbiamo creduto nella possibilità di scrivere della nostra musica e ovviamente il risultato è stato diverso, nel senso che poi ognuno aveva magari assorbito o comunque fatto riferimento a dei modelli che erano più vicini agli anni 60, qualcuno si è rifatto un po' alla propria predisposizione, magari a seguire più un'idea più europea, magari, non, o più recente comunque. Di fatto queste sono composizioni originali che non dimenticano la tradizione del mainstream o del bop, perché sono un po' la scuola di tutti quelli che in qualche modo credono in questa musica e la eseguono in questo modo. Si sente, poi, ovviamente. Come? Si sente questo. Sì, no, nel senso che appunto arriva, noi ovviamente non si rinnega la tradizione, perché noi veniamo da quello, io continuo ancora adesso ad ascoltare i dischi degli anni 30, 40, 50, poi ovviamente non è l'unica regola, ecco, però questo quartetto sì, ha molteplici aspetti sonori, o se si vuole, avere dei modelli, ovviamente ci sono dei modelli che sono magari in alcuni brani più vicini agli anni 60, magari non so, come Chick Corea, Coltrane o altri, però di fatto insomma si crede un po' che la musica è una sola, quindi poi quello che conta è che chi ascolta abbia insomma un beneficio, un piacere. Io ti ringrazio per essere venuto a trovarci qui nelle nostre trasmissioni. Ho scelto ancora un pezzo da sentire da questo nuovo CD che si chiama Nemesi, un pezzo di Abbate, ritmicamente complesso, molto cinematico, carino, e volevo farlo sentire. Grazie a tutti. Ci sentiamo come al solito su MySpace, questo per voi è Nemesi. Musica selezionata da Club Silenzio. a Mosquito Night Club Silenzio, la musica con gli occhi chiusi. Ritmi, suoni, emozioni. Tonight, in esclusiva su Radio Gold. Mosquito Night, Club Silenzio, la musica con gli occhi chiusi. I need. ritmi, suoni, emozioni. Questa è Mosquito Night, in esclusiva su Radio Gold. Emozioni. Radio Gold. Attenzione, attenzione, silenzio. Club Silenzio. Lunedì e sabato notte su Radio Gold. State pronti? Sì. Su, su. 1, 2, 3, 4. Now, man, say, massive domino. Selezionata da Club Silenzio. Mr. America, Mr. Athlete, if you would look at yourself and realize how worthless you are, you would certainly reconsider. You would think on your way, for without God, you are nothing and nobody. Notice now the words of the subject, Mr. Big Stuff. Who do you think you are? Thank you. Musica selezionata da Club Silenzio. We'll be right back. Ritmi, suoni, emozioni. Questa è Mosquito Night, in esclusiva su Radio Gold. Anytime we come, we come, dangerous. Anytime we come, we come, come, come, girls. We nice. aumenta la diffusione dei lettori MP3 con cui è possibile portarsi in viaggio migliaia di canzoni, il che può essere frustrante quando rimanete a casa. Silenzio. Chiudere gli occhi, aprire le orecchie. know, regardless of all the success, while I'm learning, I'm still a soul brother. And to each and every one that comes to see me, hear the show, I want you to know that I'll never forget what I come from, where I come from, where I am today, and who put me there. You, thank you very much. Take it down so I can make you hit some. Sere su 7, ritmi, suoni, emozioni. Think of life without music, silence the whole day long. Ears that don't hear rhythm, words without a song. Just don't know what to do, how could I live out my day? Getting up, pushing my life away. When the drums come calling, the bass line pulls you in. Sounds of regal splendor, fit for a king and queen. Secrets of the universe, the mysteries of life. And the things that don't make sense all come clear, cause the music takes me Mosquito Night, Club Silenzio, la musica con gli occhi chiusi. Oh,